Adesso è il momento della relazione del professor Spera, quale insegna all'Università di Roma la Sapienza. Ha scritto numerosi saggi su Schleiermacher, su Kierkegaard. Per quello che riguarda Kierkegaard ne ricordo due che probabilmente conosciamo tutti, il pensiero del giovane Kierkegaard e poi quella introduzione che è uscita nell'introduzione ai filosofi della casa editrice La Terza, quei volumetti, la copertina color arancione, che direi insomma è un volumetto molto prezioso perché è molto difficile riassumere Kierkegaard, invece il professore l'ha fatto con profondità e chiarezza insieme. Quindi ringraziamo il professore di aver accettato di essere tra di noi e gli do senz'altro la parola. Grazie. Devo innanzitutto precisare che il titolo è radicalmente cambiato e me ne scuso naturalmente. Quando ho ricevuto l'invito io ho pensato immediatamente al titolo che vedete scritto sul programma, L'imitazione di Cristo, modello e grazia, per un motivo molto banale, perché avevo avuto modo di occuparmi di questo argomento e perché vedevo in questo tema una esemplificazione, si potrebbe dire esemplare, dell'oggetto principale di questo nostro convegno. È paradossale imitare Cristo, già è paradossale che Cristo chieda di seguirlo, Kierkegaard si sofferma molto su questo, lui umiliato, reietto, eccetera. È paradossale cercare di imitare l'inimitabile, però è anche vero che se Cristo fosse soltanto modello ci schiaccerebbe, sono sempre espressioni di Kierkegaard, almeno ad sensum, se non ad litteram. Non è invece così paradossale se Cristo, che è il modello, si presenta anche come grazia. E allora Kierkegaard dà la chiave della soluzione di questo paradosso. Allo stesso modo, mi parrebbe che si potrebbe risolvere, e mi avvicino al tema che adesso vi annuncio, alla soluzione del problema del paradosso, se nella Chiesa questa paradossalità del cristianesimo trova, e uso l'indicativo come atto di fede, se la paradossalità del cristianesimo trova la necessaria, insostituibile e salutare mediazione. Kierkegaard parla di paradosso a tal punto che si può riempire abbondantemente un convegno sulle relazioni che noi stiamo ascoltando. È il caso però di ricordare un testo che forse non è stato citato fra i tanti, dove Kierkegaard dice che il paradosso sarebbe assoluto nel senso disperante se Cristo non desse qualche segno di riconoscimento, lo ha citato lei, la ringrazio, se non desse qualche segno di riconoscimento, metterebbe gli uomini fuori strada, li farebbe impazzire, non sarebbe veramente un atto di amore, un atto salutare da parte sua, fuorviare gli uomini, invece dà, nonostante tutto, dà i segni della sua divinità. Allo stesso modo in cui, pur parlando quasi esclusivamente di sofferenza, di passione, di morte, qualche piccolo cenno alla resurrezione e all'ascensione e al sedere alla destra del Padre si trova negli scritti kierkegaardiani. Ora, mentre Kierkegaard parla abbastanza esplicitamente, sia pure attraverso pochi testi ma significativi, di questa possibilità di riconoscere il paradosso Cristo e quindi di trovare una chiave di lettura, Mi pare che la vicenda ultima sia un segno della incapacità o quantomeno di quanto effettivamente è successo, che se Kierkegaard ha saputo brillantemente, e tanto brillantemente che a volte pare di vedere una certa enfasi nelle relazioni, enfasi che potrebbe essere anche una pericolosa esca di fondamentalismi, non è stato altrettanto capace di, come dire, assorbire lo scandalo della Chiesa o della cristianità. E allora io ho pensato a questo titolo: Paradosso cristiano e scandalo della cristianità. Del paradosso cristiano appunto ne stiamo parlando abbondantemente, ne parla abbondantemente Kierkegaard. Dello scandalo della cristianità vorrei dire qualche cosina, precisando appunto subito che la conclusione della vicenda kierkegaardiana mostra, mi sembra, questa incapacità di vivere senza disperarsi, senza tirarsene fuori, senza abbandonare la Chiesa e i sacramenti, questo scandalo della casta meretrice, della sposa di Cristo, che fra le tante contraddizioni dialettiche porta anche questa fin dall'inizio, della casta meretrix. Allora il primo punto, paragrafi, il primo io l'ho intitolato, non leggerò tutto, agonia del cristianesimo e crepuscolo della cristianità. Il secondo punto, che vorrebbe essere quello centrale mediante la traduzione italiana di un piccolo testo kierkegaardiano, che io penso e spero anche che non sia ancora tradotto in italiano, altrimenti è stata una fatica quasi inutile, Il giudizio di Cristo sul cristianesimo ufficiale. Non so se qualcuno può darmi questa ferale notizia che è già tradotto. A me non risulterebbe tradotto. Si tratta di un intervento di Kierkegaard, sì, parlo dell'italiano naturalmente, limitatamente all'italiano, anzi io mi sono avvalso anche della traduzione al solito molto precisa della edizione Hirsch. Come al solito l'edizione tedesca è sempre molto molto precisa nella traduzione, e io ho tradotto dal danese ma ho guardato bene l'edizione tedesca. Dunque, mi pare che non sia tradotto in italiano, ed è un piccolo intervento del periodo molto noto di Øyeblikket, il momento, l'istante, l'ultima polemica di Kierkegaard contro la Chiesa danese. Come si ricorderà, la polemica comincia al momento della morte di Münster. Il successore Martensen fa l'elogio funebre per Münster, testimone della verità. Kierkegaard risponde con un articolo polemico, c'è una serie di interventi, poi Kierkegaard interventi su giornali locali come La Patria, e poi Kierkegaard si mette in proprio e scrive e pubblica questi fascicoli, 9, poi il 10° viene pubblicato subito dopo la sua morte postumo, che vanno sotto il titolo complessivo Il Momento. Tra uno e l'altro pubblica anche 3 o 4 articoli che non sono compresi nella collezione del Momento, ma che sono pure molto importanti. Uno è questo, appunto, che io penso di aver dato per la prima volta in italiano, sono una decina di paginette. Il giudizio di Cristo sul cristianesimo ufficiale. E il giudizio di Cristo sul cristianesimo ufficiale è che la Chiesa, i pastori, hanno tradito Cristo, ma liturgia e bestemmia. Un terzo paragrafo è un po' una piccola conclusione che parla di riforma e parla di vera e falsa riforma della Chiesa, Ecclesia sempre riformanda, vera e falsa riforma. Ecclesia sempre riformanda è un topos classicissimo, tanto più a proposito nel caso di Kierkegaard, ma non l'ha inventato Kierkegaard, ma la sostanza, come sappiamo, non l'ha inventato neppure Lutero e dei padri. Vera e falsa riforma invece riprende un titolo di un'opera di Congar recentemente ripubblicato in italiano. Nel primo paragrafo io ho riportato alcuni momenti di quella che riterrei una costante nella Chiesa e nel cristianesimo. Ho fatto qualche accenno sia ad autori noti come Rosmini, si pensi alle cinque piaghe della Chiesa, o anche Unamuno, l'agonia del cristianesimo, ed autori meno noti. Chi fosse curioso leggerà questo contributo se sarà pubblicato. La conclusione del primo paragrafo, che introduce al secondo, e a pagina 7, leggo soltanto la conclusione in modo da passare poi al secondo paragrafo, a pagina 7, nella stessa linea, una rapida ricostruzione del pensiero kierkegaardiano, tutta l'attività letteraria con il leitmotiv dei discorsi edificanti e il manifesto dell'esercizio di cristianesimo. Il gioco raffinato e complesso degli pseudonimi aveva aiutato, tutto sommato, a dare allo slancio per edificazione e risveglio un certo distacco in timore e tremore. Reibricht, il momento, e l'esito paradossale, la patologica follendum di una chiesa, di una concezione del cristianesimo che nella polemica con l'autorità gerarchica costituita diventa rifiuto della Chiesa di Stato, ma anche contemporaneamente della Chiesa in quanto tale, con la sua predicazione, i sacramenti, la liturgia. Insomma, quello che si dice, buttare via il bambino con l'acqua del bagnetto. Non è scritto, ma così. Dal momento che Dio nel tempo, Cristo Salvatore, discendeva il momento della decisione personale, soggettiva del singolo, alla fine per Kierkegaard arriva il momento della contestazione globale, dove non è più riconoscibile né il messaggio evangelico né la sua personale concezione del divenire cristiano. Vorrei dire, insomma, che non è nemmeno Kierkegaard, è uscito di testa. Il fatto storico dell'incarnazione di Cristo, il nota bene scagliato contro lo storicismo nelle briciole, viene disincarnato dalla Chiesa, corpo di Cristo, divenuta insopportabile, scandalosa. La contestazione dell'identificazione del messaggio evangelico con le forme istituzionali, l'accusa di falsità, ipocrisia, colpa e delitto nella partecipazione alla liturgia, quindi non solo i vescovi e i pastori, ma chiunque entrasse in chiesa per partecipare alla liturgia, insomma una specie di interdetto che lancia Kierkegaard, escludono di fatto la possibilità che per il cristiano vi sia una chiesa. All'interno della vicenda finale, con la pubblicazione dei 10 fascicoli al momento, si colloca l'emblematico giudizio di Cristo sul cristianesimo ufficiale. Kierkegaard fa una premessa, dice: io mi sono presentato come un poeta, mi sono presentato con gli pseudonimi e non hanno voluto capire. E allora che cosa ho fatto? Ho tirato fuori il Nuovo Testamento e consiglio di leggere il giudizio di Cristo sul cristianesimo, che è contenuto in due passi che Kierkegaard riporta nella duplice redazione di Matteo e di Luca. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, costruite sepolcri ai profeti, ornate le tombe dei giusti, e dite: fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo macchiati come loro del sangue dei profeti. Così voi date testimonianza da voi stessi di essere figli di coloro che hanno ucciso i profeti e colmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come potreste sottrarvi alla condanna dell'inferno? Questa è la redazione di Matteo, poi quella di Luca. Guai a voi, costruite sepolcri dei profeti mentre i vostri padri li hanno uccisi. Così date testimonianza alle azioni dei vostri padri e le approvate, perché essi li hanno uccisi e voi costruite loro le tombe. Conclusione dell'articolo di Kierkegaard. Immagina, lettore, che mentre il popolo nella cristianità si trova radunato in chiesa, immagino che Cristo si presenti improvvisamente in mezzo a questa assemblea. Cosa credi che farebbe? Quello che farebbe puoi leggerlo proprio nel Nuovo Testamento. Si scaglierebbe contro i maestri. La comunità la giudicherebbe ancora come fece la prima volta. Sono allo sbando. Sto leggendo a pagina 15. Si scaglierebbe contro quelli che sono in lunghe vesti, mercanti, buffoni, che hanno trasformato la casa di Dio, se non in una spelonca di briganti, quantomeno in un negozio e una bancarella, e direbbe: voi ipocriti, voi serpenti, voi razza di vipere, come la prima volta faremo una sferza di cordicelle per cacciarli via, fuori dal Tempio. Tu che stai leggendo queste cose, me l'aspetto proprio. Se del cristianesimo non conosci nient'altro che le chiacchiere della domenica, ti indignerai contro di me. Avrai l'impressione che mi sto macchiando del più orribile sacrilegio, presentando Cristo in questo modo. Mettergli sulle labbra queste parole, serpenti, razza di vipere, non è possibile. Non sono parole che si possono in alcun modo sentir pronunciare dalla bocca di una persona educata. Farglielo ripetere poi ripetutamente è semplicemente disgustoso. Fare di Cristo un uomo che ricorre alla violenza. Amico mio, cerca pure nel Nuovo Testamento. Ma se lo scopo della predicazione della dottrina del cristianesimo è una vita comoda, agiata, con una posizione sociale rispettabile, allora l'immagine di Cristo va cambiata un po'. Sui paramenti certo non si risparmierà, e neppure su oro, diamanti, rubini e roba del genere. I pastori li vedono volentieri e fanno credere alla gente che questo sia cristianesimo, mentre si allontanano dal rigore, quel rigore dovuto alla serietà dell'eternità. Cristo diventa così una figura stereotipa, un buon uomo. Vedi quello che succede quando il cestino delle offerte gira durante il sermone e la comunità può sentirsi invogliata a dare le offerte, a mollare qualcosa. E soprattutto quando, per rispetto umano, si vuole andare d'amore e d'accordo con tutti, mentre il cristianesimo del Nuovo Testamento è, nel timor di Dio, soffrire per la dottrina da parte degli uomini. Ma guai a voi che costruite sepolcri ai profeti, eccetera. Passo al terzo paragrafo, Ecclesia sempre reformanda, vera e falsa riforma, nel quale paragrafo, come d'altronde in tutto questo mio contributo avrete notato, non è un approfondimento teoretico, non ne sarei capace, né degli scritti di Kierkegaard e né di questi topoi classicissimi, ma soltanto alcuni riferimenti. di cronache che è diventata storia, come alcuni personaggi, alcune opere, le cinque piaghe della Chiesa, o l'agonia del cristianesimo di una mano, o qui ricordo altri episodi e altri personaggi, magari non del livello di Kierkegaard e di Rosmini, proprio perché è poi cronaca che diventa storia, quella storia del popolo di Dio che credo Kierkegaard non abbia capito, non fosse in grado di capire. E allora ricordo nel terzo centenario della nascita di Sant'Alfonso da Liguori una sua espressione, mentre mi applicavo, naturalmente non è a lui che mi riferisco quando dico personaggi minori, sono quelli che non nomino, mentre mi applicavo all'apostolato delle missioni, mi resi conto che la dottrina benigna era seguita da molti uomini, pagina 17. Mentre mi applicavo all'apostolato delle missioni, mi resi conto che la dottrina benigna era seguita da molti uomini di gran sapienza e probità. Mi resi conto che la dottrina rigida aveva solo pochi maestri e pochi discepoli. Del resto, dedicati gli uni e gli altri piuttosto alla speculazione che non al ministero del confessionale. Ministero che Kierkegaard pure aveva vagheggiato in qualche modo, ma poi, come sappiamo, si è dedicato alla speculazione con tutto ciò che per lui e per gli altri, bene o male, la speculazione comporta. Poi appunto ricordo questo scritto di Congar, vera e falsa riforma della Chiesa, ricordo anche quel celebre discorso di Papa Giovanni XXIII all'apertura del concilio Gaudet et Mater Ecclesia, ci sono profeti di sventura, eccetera, noi invece amiamo, eccetera. Conclusione, pagina 18, nella visione aperta ed equilibrata di Congar, mi riferisco alla vera e falsa riforma della Chiesa, la fondazione teologica è sicura, la Chiesa è santa per i doni di Dio, Ecclesia de Trinitate, è affidata al gioco della libera accoglienza dell'uomo, Ecclesia ex hominibus. E in questa dialettica entra anche la gerarchia. Profeti e riformatori, il Magistero e la storia faranno chiarezza, hanno per i credenti l'insostituibile compito di ridare vita a ciò che rischia di appassire nel ritualismo, nell'abitudinarismo sempre incombenti per la natura umana, ciò che ha scandalizzato Kierkegaard. Per conservare alla linfa cristiana, citazione di Congar, per conservare alla linfa cristiana la forza di produrre i suoi germogli al di là delle incrostazioni della storia. Incrostazione della storia può essere per esempio la Chiesa di Stato che Kierkegaard condanna in modo inappellabile. Occorre che sorgano degli uomini che abbiano conosciuto una seconda nascita. A Kierkegaard invece è mancata la dinamica tradizio-redizio che comporta fedeltà e novità, santità di Dio e peccati degli uomini. E mentre è attenta a non cadere nella smemoratezza alienante ed è capace di pentimento e autocontestazione, rimane nella lucida consapevolezza che la sposa di Cristo resta presente e attiva in tutte le epoche.